voce. Chi te vo ben assai, sta miezza via, vete canta una canzoncella dolce. Ma stai dormendo, non te si scedata, Stephen Stelle non se vonna apri, e non ricamo sta mandolinata, scelta da bella mia. Certa che non ci penserai, ma tu nasciste per ma fatturare. Bella.